Buongiorno. Buongiorno. Siamo all'ultimo appuntamento di luglio, ma non dell'estate, visto che poi andremo avanti anche con il mese di agosto. Abbiamo le cartoline qui a disposizione con i nuovi programmi. Vi ringrazio di essere venuti. Ringrazio Marco Pugliese che è tornato in biblioteca qui da noi, sempre con l'ausilio di foto. Ci racconterà questa volta un confronto interessante fra Dante e Walter, con Dante Alighieri e Walter von der Funibaid. Quindi c'è l'aggancio sempre col nostro territorio che non perdiamo mai visto. E sì, adesso sistemiamo tutta la logistica, che volevamo fare entrare un po' di aria fresca, se no vi prometto che a Polo c'è un impianto di condizionamento, mi hanno detto. C'è un impianto condizionamento. Sarà il riscaldamento e condizionamento, insomma, dai, in qualche modo. Ci arrangeremo. Ma no, ma poi le cose quando partono sono più veloci di quello che non sembrano. Ce la faremo, dai. Ecco, allora io vi ringrazio, vi ricordo appunto le cartoline e la biblioteca rimarrà aperta anche nel mese di agosto, quindi dal 5 agosto in poi faremo l'orario continuato, da lunedì a venerdì 9:00-14:30 e poi chiudiamo, ecco, perché poi inizia a essere un po' caldo e... Prego. Ma in realtà abbiamo il magazzino che è bello fresco e dobbiamo finire dei lavori giù, per cui ci rifugieremo. Esatto. E sì, abbiamo pensato che invece di chiudere per fare questi lavori lasciamo aperto, così chi avesse bisogno comunque ha la possibilità di venire, e soprattutto ha la possibilità di venire in un orario dove solitamente noi siamo chiusi, cioè dalle 12:30 alle 14:30. Ci interessava anche sperimentarlo, ecco, in vista di eventuali cambiamenti in futuro. Ecco. Caro Marco, a te la parola, grazie di tutto, anche di vivacizzare le nostre mattine. Prego, cioè. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. E io vi ringrazio di essere qua. E io ho deciso di fare questa conferenza, chiamiamola così, sui due principali, per l'Alto Adige fino a un certo punto comunque principali figure poetiche sia di parte italiana che tedesca, ma il mio sarà un discorso più che altro più che letterario, politico letterario, nel senso che questi due esponenti letterari sono stati utilizzati quasi 1000 anni dopo la loro nascita da chi amministrava queste zone. Quindi e gli amministratori di queste zone si sono studiati molto bene la vita e le opere di questi due poeti, e hanno estrapolato dal loro pensiero, che però ricordo non era un pensiero del Novecento, era un pensiero del 1100, 1200, 1300, hanno estrapolato delle teorie politiche o delle teorie diremo proto-politiche che potessero andare a nozze con le teorie del Novecento. Quindi abbiamo da una parte Walter, che è stato letteralmente portato qua, nel senso che non era un poeta propriamente di questa zona, però a Peratoner, che fu il sindaco, il borgomastro di Bolzano fino all'avvento del fascismo, quindi fino al 1922, fu lui a inizio del Novecento, a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, a portare questa figura si accomodi signora, non c'è mica problema, questa figura a Bolzano. Walter in realtà è vero che si occupò di politica durante la sua vita, ma si occupò più che altro di una politica anticlericale, cioè Walter era molto critico nei confronti del Papa. A quel tempo ancora non esistevano ancora i protestanti, quindi il discorso cioè, i cattolici erano anche in Germania, siccome lui arrivava dall'area tedesca, il Papa in quelle zone si faceva sentire spesso e si era fatto sentire spesso, e quindi un po' come Dante, anche Walter aveva avuto dei contrasti con l'autorità papale, contrasti che noi oggi chiameremo sulla carta, nel senso che a differenza di Dante non si espose più di tanto, anzi fu anche favorevole alle crociate, anche se poi nell'intimo diceva di, quando girava nelle corti dei principi, diceva di assolutamente non prendersela con chi decideva di essere di un'altra religione, di un altro credo, addirittura era una persona che non condannava il paganesimo, quindi di vedute molto moderne e anche aperte per essere nel 1200. E perché venne scelto questo poeta? Perché fu uno dei primi poeti che in pratica mise anche piede nel nostro territorio, poeti di lingua tedesca parlo, mise proprio fisicamente il piede nel nostro territorio, quindi Peratoner decise di adottarlo, in sostanza venne adottato, e quindi venne fatta la statua, venne posta in un certo modo, e quelli non sono significati purtroppo letterali, non sono significati politici, cioè in quel periodo lì il sindaco Peratoner voleva a tutti i costi dimostrare che questa zona era tedesca per svariati motivi. E punto primo, perché l'Italia, che si era da poco unita, aveva stipulato il famoso trattato della Triplice Alleanza, quindi l'Austria, la Germania e l'Italia stringevano un trattato dove si mettevano d'accordo per una reciproca per un reciproco aiuto in caso di guerre, eccetera, guerre difensive. Poi questo trattato nella prima guerra mondiale verrà stracciato perché l'Austria attaccherà la Serbia, quindi l'Italia si ritrovò a un certo punto con le mani libere e decise di andare dal miglior offerente, che furono l'Inghilterra e la Francia. E anche lì vi furono mesi di trattative, e vi furono dei discorsi che vennero fatti a posteriori, quindi io credo che ho letto in alcuni libri quando, la parola tradimento, eccetera. In realtà non fu un tradimento, perché politicamente era possibile non schierarsi a favore delle potenze centrali secondo quel trattato, e i politici italiani in quel caso là decisero di andare appunto dal miglior offerente, quindi la Francia e l'Inghilterra promisero colonie, promisero altre fette del nostro territorio che non facevano però parte del Regno d'Italia, eccetera eccetera, e quindi si riuscì a mettersi d'accordo così. Nella seconda guerra mondiale vi fu un analogo trattato tra Italia e Germania, il famoso patto d'acciaio, e da un punto di vista semplicemente politico, Mussolini avrebbe potuto tranquillamente non schierarsi con la Germania, perché anche in quel patto lì non era prevista l'aggressione. Cioè, se qualche potenza straniera avesse attaccato la Germania e l'Italia, allora l'Italia sarebbe stata obbligata a entrare in guerra con la Germania, ma fu la Germania ad attaccare la Polonia, e quindi l'Italia avrebbe potuto avere le mani libere anche in quel caso lì. Infatti, negli ambienti tedeschi, un paio di generali vicini a Hitler disse: gli italiani stanno facendo come nel 14, perché come sapete nel 39 l'Italia non andò in guerra con la Germania subito, aspettò il giugno del 40. E anche lì vi furono delle pressioni da parte degli occidentali, quindi da Francia, Inghilterra e addirittura Stati Uniti, che promisero un sacco di cose, promisero addirittura una proposero una conferenza di pace nelle Azzorre, addirittura la Francia promise l'Algeria, parte dell'Algeria e la Tunisia all'Italia, quindi furono fatte delle promesse consistenti che poi Mussolini decise di non ascoltare e rimase con l'alleato tedesco, soprattutto dopo la caduta della Francia. E io credo che a posteriori è facile dire: beh sì, sbagliò tutto. Però nel maggio del 40 l'esercito francese era considerato il secondo esercito al mondo come potenza di fuoco, come potenza difensiva, come organizzazione, cioè non era un esercito da quattro soldi. La Wehrmacht impiegò un mese e 10 giorni per conquistare la Francia. Quindi l'Italia non avrebbe retto molto, anche se Mussolini stava costruendo il vallo, il famoso vallo, perché si fidava poco del, però avrebbe l'urto della Germania non l'avrebbe retto il nostro esercito. Quindi in quel caso lì, avendo un patto già scritto, fece come nel 14, però sbagliò l'alleanza in pratica. Però nel maggio del 40, a posteriori si può dire fu tutto un errore. Però nel maggio del 40 forse, non so quanti, in Italia ad esempio la stragrande maggioranza era a favore dell'intervento a fianco della Germania. Addirittura il re, che viene spesso visto come antifascista, come persona che disse in una riunione tra generali, gli assenti hanno sempre torto, cioè vuol dire che se non interveniamo poi la Germania si spartisce il bottino e noi siamo fuori dai giochi. Quindi la situazione era molto complessa. E fu così anche nel 14, fu molto complessa la situazione. Furono anni complessi anche per la nostra regione, perché chiaramente come terra di confine nel suo grembo aveva comunque, aveva, quando c'era l'impero austro-ungarico, comunque in Alto Adige vi erano persone di lingua italiana, quindi questo rappresentava un problema a fine 800. E il sindaco Peratoner, che era amico, aveva come consulente, diciamo, un signore, un filosofo che era un teorico della superiorità della razza ariana, questo proprio era un pre-nazista, lo possiamo chiamare oggi, e questo signore in pratica propose delle cose assurde, ad esempio germanizzare completamente i ladini, che venivano considerati un gruppo che doveva assolutamente sparire dalla faccia dell'Alto Adige. Quindi prima della prima guerra mondiale vi fu una politica particolare nella nostra zona, e chiaramente quando si attuano queste politiche, stessa cosa che poi fece il fascismo, e quando si applicano queste politiche brutali, ovviamente bisogna trovarsi una scusa, e la scusa in questo caso fu che qui, prima dell'arrivo dell'impero austro-ungarico, vi era comunque una certa maggioranza di popolazione di lingua tedesca. E tutto questo venne suffragato dall'apporto letterario di Walter, secondo Peratoner. Questa teoria è abbastanza fantasiosa, perché in realtà Walter non fece nulla di quello, anzi Walter era un poeta che in molte sue opere esaltava l'amore, quindi non era un guerrafondaio, non era assolutamente una persona che si era battuta per l'unificazione della Germania o al tempo l'Austria, più che altro c'erano i principi tedeschi, si parlava ancora di impero, di Sacro Romano Impero, e la stessa Austria era l'erede del Sacro Romano Impero, quindi in un certo qual modo dell'Impero Romano, e qua siamo a un livello un po' strano, perché da una parte c'è l'assoluta volontà di affermare la vittoria della parte, diciamo, del nord, però dall'altra si vogliono mantenere le tradizioni romane, perché appunto l'imperatore d'Austria aveva ancora sulla sua testa la corona del Sacro Romano Impero, quindi di Carlo Magno, che avrebbe voluto restaurare l'impero romano dopo la sua caduta. Quindi siamo in una situazione un po' paradossale. E quando la statua di Walter venne posta a Bolzano, quindi venne messa con il viso rivolto verso sud, come per dire guardate che adesso la mia influenza arriverà anche nel Westtirol, quindi nel Trentino, sempre perché il consulente, lo chiameremo così, di Peratoner aveva detto che i trentini non erano italiani, ma parlavano in italiano perché erano stati colonizzati, quindi avrebbero dovuto essere germanizzati, che è un po' quello che fece poi Mussolini con i tedeschi dell'Alto Adige dopo la seconda guerra, cioè fecero la stessa cosa, prima uno e poi l'altro, comunque la popolazione, prima quella italiana, poi quella tedesca, venne purtroppo messa in questo tritacarne, nel senso prima tutti tedeschi, no, poi tutti italiani. Quindi è per quello che questi discorsi, secondo me, spesso lasciano il tempo che trovano, nel senso che ormai invece dobbiamo cercare di avere una visione parallela delle cose, non più ma no, c'eravamo prima noi, no, ma c'erano prima loro, no, ma dopo sono arrivati. Quindi quando sento certe polemiche un po' assurde, mi viene da sorridere, perché sennò siamo sempre a rivangare, cioè, facendo così arriviamo all'età del ferro, poi non lo so dove arriviamo, ai dinosauri, non lo so, quindi forse sarebbe il caso di studiare le cose in parallelo, spiegare cosa è successo prima e dopo, il perché di alcuni atteggiamenti e non fare valutazioni, cioè non siamo più negli anni 60 e 70 dove le persone che hanno subito certe cose hanno tutto il diritto di lamentarsi. Siamo negli anni, insomma, siamo nel 2013 dove molte persone non hanno più subito angherie di nessun tipo. Quindi è giusto ricordare la storia al 100% senza omettere né da una parte né dall'altra. Quindi gli errori del fascismo, ma anche gli errori precedenti. E raccontare bene cosa successe nella prima guerra mondiale, quindi non farla passare come guerra di conquista, perché guerra di conquista fu una conquista obbligata dalle potenze con cui l'Italia era alleata, perché nella conferenza di pace venne proprio detto: ci prendiamo lo spartiacque del Brennero perché fisicamente è più difendibile, un confine a Salorno sarebbe stato più complicato da difendere perché a quel tempo non c'erano ancora i radar, quindi insomma si ragionava così e soprattutto è curioso perché il nostro presidente del Consiglio del tempo non avrebbe voluto avere l'Alto Adige, perché avere nel proprio territorio nazionale una popolazione di diversa lingua appunto con la disgregazione dell'impero austro-ungarico portava problemi, quindi avrebbero preferito avere una colonia in Africa, quindi la Tunisia, infatti venne chiesta la Tunisia. Non venne accontentata l'Italia da questo punto di vista, gli venne dato l'Alto Adige, l'Istria, la Dalmazia, eccetera, eccetera. Terre quelle sì a prevalenza italiana, infatti quando poi ci vennero tolte dopo la Seconda Guerra Mondiale non si parlò mai però di staccare l'Alto Adige dall'Italia, neanche dopo il 45, furono i russi a non volerlo e gli americani, però più i russi, perché il discorso era sempre difensivo. Quindi fu l'URSS che si impose. Avrebbe preferito anche che paradossalmente la Dalmazia rimanesse sotto l'Italia e non andasse alla Jugoslavia, perché la Jugoslavia era uno stato un po' particolare. Era sì schierato in parte, c'era Tito, eccetera, però voleva mantenere quel discorso di cuscinetto, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Quindi questo discorso qui a Stalin non è che stette proprio benissimo, aveva preferito fosse occidentale e punto. Andò come andò, e infatti poi si crearono quelle tensioni che distrussero la Jugoslavia dall'interno, eccetera. Quindi io ho poi sottolineato una data molto importante per la nostra regione, non eccessivamente, però per il discorso che venne fatto a posteriori. Questo è un dipinto che raffigura la battaglia di Teutoburgo, che è una località della Germania, e in pratica questa battaglia fu tra Romani e Germani, fu una delle sconfitte più clamorose del nascente Impero Romano, che traumatizzò l'imperatore Augusto, quindi non proprio l'ultimo arrivato, cioè una persona fredda che non si fece nemmeno intimidire da Cleopatra, da Marcantonio, eccetera, eccetera, però rimase scioccato da questa sconfitta, che fu una sconfitta però particolare, perché non so se lo sapete, ma i Romani avevano una tattica particolare quando conquistavano una zona. Non sterminavano la popolazione, ma cercavano di romanizzarla, cioè di fargli capire che era più conveniente stare con i romani che contro. Anche in Germania questa tattica funzionò all'inizio, infatti i ragazzi tedeschi, possiamo anche chiamarli così, dell'epoca, venivano mandati a studiare l'arte della guerra a Roma. Uno di questi non arrivò proprio a Roma, però nel nord Italia sì, fu Arminio, che fu sarebbe stato un generale di supplemento delle truppe romane in Germania, che però in realtà si mise d'accordo con le sue lo chiameremo patriota oggi, si mise d'accordo con le sue con la sua popolazione d'origine, quindi con le tribù germaniche, e tradì, in pratica, a un certo punto tradì i romani e si schierò, fece praticamente un'imboscata, una grande imboscata, e l'esercito romano, che contava circa 60.000 effettivi, venne praticamente sterminato in quella circostanza, perché proprio i romani non si aspettavano un attacco dall'interno. Di solito quando i romani attaccavano quelle zone, specialmente quelle zone che erano molto selvagge, si trinceravano in campi, facevano, insomma, non era semplice attaccare un accampamento romano. Invece in quel caso lì, durante la marcia e durante l'accampamento, hanno deciso di non trincerarsi, perché appunto Arminio disse: io mi sono messo d'accordo col tal principe, col talè, e vi fu. Ecco, questo fu un po' lo spartiacque tra mondo germanico e mondo latino, nel senso che non si riuscì ad andare oltre il Reno, quindi il mondo germanico rimase a sé stante e non venne inglobato nell'impero romano come invece avrebbe voluto Augusto, e con questa sconfitta in pratica si tagliò un confine, anche se poi successivamente i romani scavalcheranno e guaderanno il Reno, conquisteranno ben delle zone, ma non riuscirono mai a avere una completa visione del territorio, una completa assimilazione delle popolazioni, come invece fu in tutto il resto d'Europa. E infatti quelle zone lì non hanno assolutamente avuto, hanno anche poco a livello di architettura romana, nel senso che comunque ci sono delle rovine, però sono ridotte rispetto al resto d'Europa. E quindi in queste zone qui, quindi da questa data qui, in pratica vi fu una divisione di questi due mondi, quello latino e quello germanico. Divisione che continuò anche per tutto il Medioevo, quando poi i principi invece germanici scesero in Italia appunto per avere di nuovo un'unità imperiale. E soprattutto vi fu un accordo tra mondo latino, che ormai il latino aveva solamente la lingua, ma in realtà era mondo cattolico, il mondo papale, e l'imperatore. E è famoso il Papa Gregorio per aver fatto questo e per me essersi messo d'accordo in pratica con un imperatore tedesco e avergli detto: guarda, tutto quello che succede sulla terra è compito tuo con la mia benedizione, tutto quello poi che succede dall'altra parte però lo devi lasciare a me, quindi io comando il discorso spirituale e tu ti gestisci il discorso politico. Ovviamente questo discorso fu molto furbo, perché alla fine il Papa riusciva a inserirsi anche nelle trattative per la successione anche, quindi insomma il Papa fu molto, molto furbo, era un politico, fece aspettare l'imperatore per molti giorni, lo fece pentire, proprio fu molto furbo, psicologicamente molto furbo, e l'imperatore cascò nel tranello e da lì fino a Martin Lutero in pratica problemi di sorta non ce ne furono. Poi Martin Lutero, sapete tutti, fece questa rivoluzione all'interno, perché lui era un prete, quindi partì dall'interno, questa rivoluzione che poi andò a spezzare di nuovo il matrimonio tra la parte tedesca e la parte, cioè la parte nordica tedesca e la parte latina, ok? Anche da un punto di vista, lì sì, da un punto di vista letterario, perché? Perché Martin Lutero in pratica, a parte che fu lui il fondatore della lingua tedesca di fatto, perché prese la grammatica latina e la mise nella lingua tedesca, e soprattutto con la traduzione in tedesco della Bibbia diffuse quello che noi chiamiamo il volgare, appunto anche lì era il volgare, la lingua volgare la diffuse nell'area tedesca, quindi di fatto fu il Dante tedesco Martin Lutero. Avrebbe avuto più senso mettere una statua di Martin Lutero a Bolzano, se proprio i pangermanisti avessero voluto fare un discorso di questo tipo, avrebbe avuto molto più senso, perché con l'indipendenza letteraria si arriva a una nazione, con l'indipendenza semplicemente militare non è detto che arrivi a fare una nazione. Infatti a noi italiani nel 1300 avevamo un'indipendenza intellettuale dal resto d'Europa, ma non diventammo una nazione come la Spagna, come la Francia, perché avevamo tante piccole realtà, non feudali però, comunali, quindi Firenze, le repubbliche marinare, i comuni del nord, il regno del sud, erano degli staterelli che però avevano un discorso intellettuale al loro interno, non era il classico principe e anche la Germania ebbe una storia molto simile alla nostra, divisa, fu Bismarck che unì la Germania, divisa, profondamente litigiosa, perché i principi tedeschi erano in continuo litigio tra loro. Infatti l'Austria poté mantenere anche il suo impero per molti anni anche per questo motivo, e non ebbe però un'unione, non vi fu un'unione politica, ma un'unione intellettuale, sì. Cioè i tedeschi erano consapevoli di essere tedeschi, gli italiani erano consapevoli di essere italiani, ma non avevano un'unione politica, perché se nel 1500 in pieno medioevo, quello è il nostro vero medioevo secondo me, non è prima, per l'Italia è dal 1500 al 1700 il vero medioevo, dove proprio c'è un decadimento anche intellettuale e proprio di crisi di identità del nostro popolo, secondo me è peggio che nel medioevo vero, e quello insomma scritto nei libri di scuola, perché in quel periodo lì appunto vi è una rassegnazione totale a essere asserviti a popoli stranieri, cioè la popolazione italiana neanche si ribella più. Arrivano gli spagnoli, Manzoni ce lo descrive nei Promessi Sposi, arrivano i francesi, arrivano i tedeschi fino a Roma, infatti a Roma venne saccheggiata dalle truppe imperiali tedesche, brutale, eccetera. Quindi quel periodo lì fu veramente devastante. Però il filo conduttore tra il Rinascimento, quindi il periodo di Dante proprio, e il Risorgimento vero e proprio, sarà proprio intellettuale. Infatti questa frase, che spesso l'aveva riportata Benigni durante il suo discorso famoso a Sanremo, ed è verissimo, lui in pratica il suo fortissimo studio di Dante, perché lui è un conoscitore di Dante, ne sa moltissimo, e di Petrarca anche, perché Petrarca era forse più, lo chiameremo più nazionalista di Dante, perché Dante insomma era più che altro schierato con la Repubblica Fiorentina, si parlava d'Italia ma in un altro modo. Fu invece Machiavelli e Petrarca avevano già in testa l'idea dell'unificazione italiana. Addirittura Petrarca aveva pensato, siccome all'inizio anche lui non era proprio contrario al papato, eccetera, avevano addirittura teorizzato di fare una repubblica con a capo il papa. E progetto che non è che venne messo in un cassetto, perché addirittura quando vi fu anche Mazzini venne contattato in pieno Risorgimento da esponenti cattolici che avevano quell'idea lì, quindi niente re ma il papa. Perché? Perché il papa fu l'unica istituzione in Italia, cioè gli italiani durante questi anni qua si dovevano per forza avere una figura di riferimento, ed era il papa. Prima erano stati gli imperatori romani, poi fu il papa. Il re in realtà non fu mai una figura di riferimento, lo fu di più Mussolini paradossalmente, cioè il re non lo fu mai, non fu quella figura che appassiona come gli inglesi, noi non abbiamo una tradizione monarchica, proprio zero, noi abbiamo una tradizione repubblicana / non saprei neanche proprio definirla, comunque chiamiamola repubblicana, o lo stesso fascismo, infatti fu alcuni testi definiscono il fascismo la repubblica nera, perché effettivamente lo stesso Mussolini non aveva nulla di monarchico, proprio la sua è una dittatura, il fascismo, che va studiata da un punto di vista intellettuale in una maniera al di fuori dallo schema classico, secondo me non ha precedenti una dittatura fatta e gestita in quel modo lì. Perché fino al 1936-38 in Italia la vera, addirittura gli antifascisti nel 36 andarono ad arruolarsi con le camicie nere per la guerra d'Etiopia, cioè i comunisti scrissero delle lettere al PNF per rientrare in Italia dopo l'impero, eccetera eccetera. Quindi gli antifascisti a Mosca erano un discorso, ma gli antifascisti a Parigi, che l'Italia non richiese mai l'estradizione, eccetera, perché Mussolini come strategia anche lui non aveva il brutale assassinio, ma aveva la conciliazione, infatti Nenni era il suo migliore amico ed era socialista, ma non venne mai ucciso, venne messo al confino. ok, però non venne mai ucciso, perché comunque Mussolini non era brutale da quel punto di vista, era brutale su altri punti, sì, Matteotti, qualcuno mi poteva dire Matteotti, anche lì il discorso è complesso. Mussolini in realtà non avrebbe voluto che fosse ucciso, perché rischiò, fu l'unica volta in cui rischiò di cadere la dittatura, era appena nata e rischiò già di cadere, perché con Matteotti veramente vi fu proprio un passo minimo alla caduta del fascismo, proprio alla totale distruzione, perché gli italiani quella volta si indignarono, tutti, poveri, ricchi, eccetera. Matteotti, veramente, la vedova Matteotti fu addirittura aiutata poi dallo Stato, perché nonostante lo Stato fosse già fascista, perché appunto venne ucciso in una maniera atroce, brutta, e soprattutto questo omicidio venne proposto. È vero che Mussolini fece un discorso in Parlamento, direi un discorso assurdo, dicendo che per alcune persone ci voleva il piombo, però anche oggi qualcuno parla di fucili, quindi il solito discorso di cattiva gestione di discorso politico, però aveva dato ordine espresso di non uccidere persone dell'opposizione. Invece i suoi scagnozzi su tutti i Dumini, che era un signore che non era in realtà fascista, era semplicemente un delinquente, perché i fascisti alla prima ora avevano delle idee ben precise, e infatti poi si distinsero, e su questo c'è una letteratura che non viene quasi mai studiata, ma si distinsero tantissimo dai fascisti dell'ultima ora, si chiamarono Sansepolcristi, si fecero chiamare, perché fu una proprio l'idea originale del fascismo che era veramente vicina al socialismo. Infatti se uno prende i fasci di combattimento e la fondazione, toglie tutte le parole che hanno dentro la parola fascio, la fa leggere a una persona che si professa di sinistra o addirittura più estrema, io credo che i punti siano quasi tutti in comune, e lo dico perché io non arrivo da una letteratura di destra, io arrivo da una letteratura di sinistra, e questo gioco me lo fece un amico, e cascai anch'io nel tranello, cioè mi ritrovavo in alcuni punti pur essendo io completamente dall'altra parte. E personalmente ho sempre, e lo posso dire tranquillamente, ho sempre avuto un certo distacco dalle persone che si... Cioè, all'inizio anch'io non volevo capire chi si definiva di destra o comunque addirittura fascista. Ho conosciuto delle persone che proprio dicevano: io mi sento fascista. Invece poi ho provato a leggere o a documentarmi su certe ideologie, anche italiane, prettamente italiane, quindi... E io consiglio sempre, se volete capire il fenomeno del fascismo, non leggete più di tanto la letteratura straniera, leggete la letteratura italiana e intellettuali italiani, anche di estrema sinistra, però italiani, perché io credo che certe variabili di quel movimento politico non siano completamente capibili da una persona che non ha vissuto in Italia o che non conosce la nostra mentalità. Questo lo posso dire perché ho letto dei libri molto belli su Mussolini, molto belli sul fascismo, ma del tutto fuorvianti. Cioè, viene poi sempre fuori quel discorso della carnevalata. Non era solo una carnevalata, non si può ragionare partendo da Starace e dal saluto al Duce, che era sì una carnevalata, ma il movimento era intellettuale. Anche lì, come Dante, come Walter, fu fatto un lavoro intellettuale prima che politico, lasciando stare l'indottrinamento dei giovani, quelle sono cose ovviamente sbagliate, e fu fatto in parallelo con Stalin questo lavoro. Lenin aveva parlato più volte con Mussolini, e con Mussolini a Dongo venne ucciso il fondatore del Partito Comunista Italiano, un cofondatore, tale Bombacci, che era un signore, che lo si vede, adesso lo chiameremo figlio dei fiori, era un signore con la barba incolta, capelli un po' spettinati, non aveva camicie hawaiane perché al tempo non andavano di moda, ma comunque era vestito, ricordava un figlio dei fiori. Questo signore era stato il cofondatore del Partito Comunista, quindi, e legato anche a Mussolini, e rimase in Italia durante il fascismo, addirittura scriveva qualche articolo e sui giornali di regime col nome ovviamente camuffato, e poi dopo il 1943 volle a tutti i costi ritornare con Mussolini, perché avrebbe voluto riproporre quel discorso di socialismo, eccetera, eccetera. E Mussolini lo accolse. Poteva tranquillamente scappare, avrebbe potuto tranquillamente far vedere la tessera. Quindi la fucilazione di Bombacci io non l'ho mai capita, perché non fece nessun tipo di reato contro persone o cose, mai. Addirittura, addirittura fu il cofondatore del Partito Comunista, però venne fucilato lo stesso, andava eliminato tutto quello che era scomodo. Quindi andrebbe forse anche adesso rifatto un discorso anche di quel, lasciando stare gli entusiasmi dell'epoca o di chi è stato in quell'epoca partigiano, fascista. Ecco, io con le persone di quel tempo non ho mai discusso e non ho mai né polemizzato né niente, perché chi è nato in quel tempo lì ha tutto il diritto di schierarsi da una parte o dall'altra. Forse sul nazismo avrei qualcosa da dire, però fascismo e comunismo, comunque antifascisti e fascisti, è una letteratura ampia, aperta, e che va discussa al di fuori dell'entusiasmo dell'una o dell'altra parte. Secondo me adesso lo possiamo fare questo discorso, nel 70 non lo potevamo fare, perché chi aveva vissuto quelle cose era ancora in gamba e quindi poteva dare una sua visione, mai a 360 gradi, mai a 360 gradi, perché se si vanno a leggere i taccuini delle truppe americane, si dice gli italiani non li capiamo, nel 40 erano tutti fascisti e adesso troviamo montagne di gagliardetti in giro per le strade. Quindi sapete, no, dopo il 43 si andarono a fare i caroselli come per il mondiale di calcio, cioè si credeva di avere concluso una stagione e iniziarne un'altra il 25 di luglio. E invece poi sappiamo purtroppo che quei 2 anni furono peggio degli altri 23 su certi, perché lì ci furono veramente delle uccisioni, perché purtroppo diventò un discorso, fu proprio una guerra, una vera e propria guerra civile. Comunque lo fu anche in Alto Adige, quei 2 anni di 2 anni e mezzo con Hofer, un autentico macellaio, furono proprio 2 anni che fecero veramente, lì nacquero secondo me i veri conflitti tra la popolazione italiana e popolazione tedesca, perché lì furono deportate delle persone, la comunità ebraica di Merano ne sa qualcosa, e soprattutto ci furono le vendette personali, è logico, è chiaro, 20 anni di fascismo, e ci furono le vendette personali, però è anche bene ricordare che per fortuna durante il fascismo la vittima fu una sola, sì, chiaro, sarebbe stato meglio neanche quella, però fu solo il maestro di musica Franz Neroffer, che in mezzo ai tafferugli gli viene sparato in pratica, ma era anche al tempo, purtroppo durante le manifestazioni qualche morto ci scappava sempre, non era come adesso, non faceva quasi neanche notizia, e quindi ecco, fu l'unica vittima, almeno questo lo si dovrebbe dire, per far capire che proprio per arrivare a una conciliazione, non a giustificare la traduzione dei nomi in tedesco, in italiano dei nomi tedeschi, assolutamente non quello, non bisogna cadere in quel tranello lì, bisogna però fare un distinguo, dire è successo questo perché era successo questo e siamo arrivati a questo, adesso siamo arrivati a una realtà plurilingue, a una realtà pluri, non più monolinguistica per svariati motivi. Possono dare una mano i poeti, e su questo possono dare una mano sia Walter che Dante anche non è di questa, sinceramente Dante ha poco a che fare con l'Alto Adige, venne eretta la sua statua a Trento che guardava verso nord e pensate la pagarono i trentini, quella statua lì, e appunto in contrapposizione la statua di Walter, quindi i due poeti si guardano uno in faccia all'altro, andate a Trento, se voi vi mettete sotto la statua state guardando Dante, viceversa. E poi corsi e ricorsi, la statua di Walter adesso in piazza Walter come è stata collocata, è stata rimessa allo stesso modo, quindi comunque guarda a sud, e uno mi può dire perché l'hanno rimessa così? Non lo so, non creiamo ulteriori polemiche, però se quando si fanno questi discorsi, come vedete, vengono sempre fuori le polemiche, perché la statua del re Laurino è davanti alla provincia? E in fin dei conti è un re germanico che schiaccia una però a me sinceramente non dà fastidio, la vedo come una statua di un periodo storico, ok? Quindi contestualizziamo quella, contestualizziamo il Mussolini a cavallo, contestualizziamo il Monumento alla Vittoria, cioè facciamo un discorso, cerchiamo di fare un discorso. Questo signore che vedete qua è Silvio Pellico, che è un, voi sapete, no, è famosissimo, quindi un patriota, ed è curioso che non sia mai stato tirato in ballo neanche durante il fascismo, quindi vedete anche al fascismo ogni tanto mancava qualcosa, e mancava perché il capo del fascismo aveva avuto degli studi da autodidatta, quindi c'erano dei buchi nella sua cultura profondi, ad esempio Mussolini non era una cima in storia medievale, non gli piaceva probabilmente. Era bravino in storia romana e portò tutta la simbologia romana nel fascismo. In realtà non fu lui, ma fu D'Annunzio a fare quel lavoro. Addirittura si inventò che furono gli opliti greci. Insomma, D'Annunzio lo conosciamo, era anche simpatico su certi argomenti e su certi altri amava copiare e inventare molte sue opere, lui non disdegnava, diceva la tal persona è brava a scrivere, fa schifo in quel pezzo, io gli copio il resto, proprio ragionava in questo modo, e anche lui fu insomma un personaggio importante intellettualmente, portò però l'Italia dall'Ottocento al Novecento, la fece conoscere all'estero. Quindi fu un poeta internazionale, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale da bravi scolaretti abbiamo imparato che era fascista, che si era messo così con la... Poi comunque non si sa perché, era il male assoluto, ma le scuole gliel'hanno intitolato lo stesso. Era il male assoluto, però Vittorini, che era peggio di lui, o Pirandello, che aveva la tessera del partito fascista, il busto di Mussolini in casa... Era un poeta invece da amare, cioè, queste cose dello studio della letteratura italiana post seconda guerra mondiale andrebbero un pochino rimesse a posto, perché si danno delle visioni completamente sbagliate dei personaggi, e soprattutto si studiano, secondo me in letteratura le opere sono importanti, ma si deve studiare il contesto storico proprio a livelli di dettaglio. Perché studiare D'Annunzio a sé stante, studiare Dante a sé stante e studiare... Intanto erano politici, facevano politica, quindi quando anche a scuola ho sentito dire no ma non ci occupiamo di politica, è una gran cavolata, perché in realtà invece bisogna occuparsi della politica di quel tempo, perché senza la politica di quel tempo non sarebbe stato D'Annunzio. Quindi... E anche questo discorso, in Alto Adige D'Annunzio non venne preso perché era ancora un poeta contemporaneo, quindi non si potevano mettere le sue massime in giro perché era ancora vivo D'Annunzio ed era pure superstizioso, era in una sorta di esilio al lago di Garda, ogni tanto Mussolini lo andava a trovare, ma dal 22 all'anno della sua morte diciamo che danni non ne fece più, veri danni non ne fece mai in realtà, cioè su certe cose dovremmo appunto... anche da un punto di vista lessicale dovremmo ringraziarlo, perché tramezzino la parola la inventò lui, eccetera eccetera, quindi i beni culturali, proprio l'espressione beni culturali la inventò D'Annunzio, adesso le università hanno la conservazione dei beni, fu lui il primo a dire manteniamo il nostro patrimonio storico artistico, e pensate ufficialmente invece lui era un po' futurista, la modernità, andiamo in macchina eccetera, in realtà invece era un grande conoscitore della storia d'Italia e soprattutto teneva tantissimo alle opere d'arte italiane, quindi non questo slancio forte che ebbe e fece conoscere anche il nostro paese all'estero, perché appunto andò a Parigi eccetera eccetera, quindi è un personaggio che andrebbe rivisto su certe cose, molto polemico ovviamente, divenne famoso per delle cose assurde, però fu anche una persona appunto da apprezzare su altri temi, e come adesso magari qualcuno conosce Sgarbi, che in realtà è spesso è conosciuto per le sue uscite assurde, polemiche, però è uno dei critici d'arte più bravi e preparati del panorama italiano, e quindi va detto anche questo. Quindi quando si studia un personaggio, secondo me bisogna dire un po' tutto. E tornando a Dante, quindi anche lui fu un poeta di importazione, voi la storia di Dante, no? Il sommo poeta, addirittura in lingua italiana, se un ragazzino o una persona dice il poeta e lo scrive grande, è lui. Cioè, per noi Dante è questo. E perché? Perché aveva il merito di iniziare a utilizzare la lingua volgare. Quindi nacque prima l'italiano e poi nacque la nazione italiana. Cioè, la nazione italiana c'era già. E non è fascista dire che c'era al tempo dei romani, nel senso che la prima l'Italia unita con le regioni c'era al tempo dei romani, non è una invenzione. Cioè, anche questo discorso che è stato fatto tra fascismo e romanità, ti piacciono i romani così, no, l'impero, no, quelli sono discorsi fatti a posteriori. In realtà la popolazione italiana fu poi conquistata, siamo figli di tante razze, eccetera eccetera, ok, però la nostra origine è quella, la nostra mentalità è quella, nel senso che arriva da quel percorso lì. Infatti gli intellettuali del Risorgimento nel nostro inno che hanno messo Scipione l'Africano si sono riuniti, e lì non c'erano fascisti ancora. Quindi voglio dire, perché siamo la nazione che ha dato i natali all'Europa occidentale insieme alla Grecia, però noi l'abbiamo fatto in una maniera più moderna. I greci erano molto legati alla loro parte antica e non riuscirono a modernizzarsi, infatti, e a unirsi. Invece i romani avevano un ragionamento molto più pratico e moderno. E cosa fecero? Presero gli intellettuali greci, da dove copiarono alcune cose e modificarono. Praticamente fu questa la storia banalizzata. Stessa cosa fecero i nostri intellettuali nel Risorgimento. Poi sul Risorgimento ne sono state dette tante, Garibaldi era un massone, gli inglesi eccetera, il Regno del Sud super avanzato, starebbe stato meglio da solo. Queste teorie degli ultimi anni sinceramente non vedo mai però una base di dati economici a fianco a queste teorie. Cioè non sto dove sta scritto che il Regno del Sud era aveva le industrie da tutte le parti. Boh, allora avremmo dovuto averle anche dopo. Invece purtroppo c'era l'analfabetismo in Italia, era un gran problema in quegli anni là, da nord a sud. Quindi e probabilmente senza unione saremmo rimasti peggio. Cioè c'è qualcuno ancora in giro che pensa che saremmo stati saremmo stati meglio divisi, ma penso che queste persone non hanno chiaro cosa significasse essere divisi in tanti stati piccolini e insignificanti. Quindi voglio dire, prima di... Ecco, un poeta che a scuola, l'ho ripetuto anche in altre conferenze, viene visto come buono e amante di tutto e assolutamente pacifista è Pascoli. In realtà invece no, perché scrisse degli editoriali su Corriere della Sera di intervento per la guerra di Libia e io faccio sempre questo paragone. Nel 12 Mussolini sdraiato sui binari che non faceva partire i treni dei nostri soldati che andavano a conquistare la Libia, Pascoli che scriveva sul Corriere della Sera, è giusto andare a avere giusto che la grande proletaria, cioè l'Italia, abbia finalmente il suo posto al sole. Pascoli fortemente anti-inglese, perché gli inglesi ci tagliavano le ali, come si suol dire, nel senso che dicevano va bene l'Italia, però la flotta non la potete fare così, a Malta ci siamo noi, sulle Baleari no, ci siamo noi. Quindi capite, anche quando si parla di colonie, di impero, bisogna sempre rientrare nella logica del tempo. A quel tempo lì, e lo stesso impero austro-ungarico favoriva un certo qual modo il colonialismo italiano, perché era contro gli inglesi, noi eravamo alleati. Quindi vedete, la politica e le strategie militari sono, volenti o nolenti, tuttora nella famosa crisi che c'è adesso, anche qui paghiamo o non paghiamo delle alleanze piuttosto che altre alleanze. Cioè è molto attuale questo periodo, e la crisi che stiamo vivendo adesso è, da un punto di vista economico, è meno crisi del 29. Beh, lì basta leggere i dati e basta fare dei confronti. Poi bisogna vedere come vengono poi risolti i problemi, perché dal 29 al 39 il problema sappiamo come lo hanno risolto: facendo delle guerre coloniali, nel caso dell'Italia, spingendo le persone a andare all'estero, quindi in Italia si andava negli Stati Uniti o in Australia. Nel resto d'Europa, come in Germania, si puntò tutto sul riarmo. L'Inghilterra il problema non ce l'aveva, perché tanto avendo un impero coloniale ancora intatto andava a prendersi i diamanti in Sudafrica, l'oro in Australia, il petrolio in Medio Oriente. Cioè si fa presto adesso a parlare di Unione Europea e Gran Bretagna, ma la Gran Bretagna, che ancora è fuori perché non ha l'euro, adesso si è mangiata tutti i soldini di 400 e circa anni di impero coloniale e chiaramente ha una situazione economica veramente verso il ribasso, di stagnazione. Anche loro sono in ristagno economico perché hanno hanno avuto un'economia, cioè l'Inghilterra ha un'economia coloniale. Noi non abbiamo un'economia coloniale, non l'abbiamo mai avuta, perché le colonie che eravamo andati a prenderci è stato a posteriori, era meglio rimanersene, esatto, in Italia. Quindi non avevamo i giacimenti di diamanti e poi non si sapeva che in Libia ci fosse tutto quel petrolio. Quindi e la Francia anche la Francia ha una politica coloniale, quindi gli stati, la Spagna ebbe la sua età dell'oro con lo sterminio totale delle popolazioni del Sud America e andò in stagnazione economica per circa 400 anni, fu fuori dalla seconda guerra mondiale perché Franco non riuscì a schierarsi e oggi paga una finta età dell'oro degli anni inizio anni 2000. Quindi e anche oggi, come vedete, se voi leggete un giornale, abbiamo alcuni economisti o alcune persone che fanno lo stesso lavoro che faceva per Toner, eccetera. Molti alla televisione o sui giornali dicono Italia, Grecia, Spagna. È un grande errore mettere sullo stesso livello tre nazioni così, ma non perché noi siamo superiori ai greci, perché abbiamo proprio un background, una storia completamente diversa dalla Spagna e dalla Grecia. Cioè la Grecia già nel 2004 si vedevano le crepe di quello che non sarà mai fatto in quel modo lì, quindi è uguale in Spagna, non ci fu una politica lungimirante, si preferì avere tutto subito, hanno giocato alle cicale anche lì, noi in un modo diverso ovviamente, cioè qualcuno dice che si è mangiato di meno da alcune parti piuttosto che da altre. La Germania invece nel 2002 iniziava la sua politica di rigore economico, per esempio, e non è che in Germania erano particolarmente felici di questa cosa. E chiaramente adesso hanno i frutti di quel lavoro economico, però io credo che oggi l'Unione Europea, e questo è un discorso che vale per la storia, per oggi, non deve fare i conti anche col Mediterraneo, nel senso che non si può ragionare solamente da nord a nord, si deve ragionare con tutti i paesi anche dell'area mediterranea, quindi con la Grecia, con la Spagna, con l'Italia e con i nuovi entrati, perché la Croazia è entrata, la Croazia è entrata e il giorno dopo aveva già il discorso del deficit a ribasso, quindi queste sono, come vedete, sono delle politiche delle volte anche ipocrite, e del fate bene fratelli un po' ipocrita, nel senso che siamo qua tutti a dire che bello, è proprio fantastico, però in realtà il discorso è molto particolare. E noi qua a Bolzano abbiamo la fortuna di avere un determinato tipo di contesto anche socio-lavorativo particolare, e da questo punto di vista, perché appunto abbiamo anche siamo in più minoranze, quindi c'è quella italiana, quella tedesca, quella ladina, e questo gioco che a molti ci ha fatto bene, perché comunque economicamente la nostra regione, la nostra provincia anzi, è molto elevato, cioè il livello economico è buono, insomma i soldi sono stati gestiti bene, quindi questo è forse il discorso da fare in futuro, nel senso che da questa unione anche violenta delle volte di varie culture, cultura tedesca, cultura italiana in questo caso, che se messe insieme invece hanno prodotto un qualcosa di positivo, senza fare il solito scaricabarile, c'eravamo noi, c'eravate voi, c'era lui, no, forse proprio un discorso in parallelo. Ecco, questo signore qua molto severo era Bismarck, che fu il Garibaldi, perché vedete abbiamo avuto anche le stesse figure, Garibaldi però era diverso, era un po' meno scaltro, invece Bismarck era un po' più furbo, riunì la Germania politicamente e fu un po' cattivello anche nei confronti della nostra nazione, perché disse l'Italia, per quel che mi riguarda, è un'espressione geografica. Quindi lui in realtà disse questo perché aveva un po' di paura che l'Italia venisse fuori alla lontana, nel senso che dal punto di vista socio-economico appunto era pericoloso avere un paese forte nell'area mediterranea, è per quello che gli inglesi ci aiutarono a unirci. ok? Poi però si pentirono anche loro, perché poi l'Italia invece arrivò a un punto in cui sfidò anche l'Inghilterra, cioè negli anni 30, a parte le sparate di Mussolini, quelle classiche, spezzeremo le reni, eccetera, e effettivamente l'Inghilterra aveva un po' paura, nel senso che nel Mediterraneo noi non eravamo più come, passatemi le pezze al sedere, come 100 anni prima, ma avevamo un certo tipo di controllo economico dell'area, avevamo Rodi, quindi tutta quella parte lì, la Grecia aveva un rapporto con noi molto avanzato, stesso discorso in Spagna, quindi avevamo questo discorso qui. E questo signore qua fu uno di quelli che all'inizio fece di tutto per non far sì che l'Italia diventasse uno stato unitario, cioè con alleanze, eccetera, eccetera. Prego. Però non è che prima, quando c'era ancora nel 1870, che adesso non so se vivesse ancora lui. No, era morto da poco. Ok, la Germania, ovvero la Prussia, aveva dato una mano però, certo, ai Savoia, certo, a conquistarsi il. Perché il papà, cioè. Avevano dato una mano. In pratica, cosa era successo con Napoleone III? E i prussiani avevano mosso guerra a Napoleone III, perché i francesi avevano una guarnigione intorno a Roma e proteggevano il papa. La Francia fu una di quelle che si batté per non far unire lo Stato italiano, eh. Cosa successe? Che Napoleone III fu costretto a ritirare quelle truppe perché gli servivano per combattere i prussiani a casa sua, e in quel modo lì noi riuscimmo. Perché? Perché in quel momento lì la Germania aveva interessi economici al nord, nel senso che Alsazia e Lorena, che sono due terre tedesche attualmente in territorio francese, a quel tempo anche, e dal potenziale economico siderurgico elevatissimo, dovevano tornare nella madrepatria. E quindi, per suoi fini, giustamente, in politica così, non ci sono i buoni ma ci sono i fini, Machiavelli l'aveva detto molto tempo prima, aveva ragione, la Prussia aiutò l'Italia, anche se dopo il discorso fu completamente avverso. L'Inghilterra stessa cosa, anzi il colonialismo italiano fu quasi spinto all'inizio dagli inglesi, ma prendetevi l'Etiopia, ma prendetevi, e infatti all'inizio poi proprio loro che bloccavano ufficialmente proprio... bloccavano, perché poi la Francia e l'Inghilterra bloccarono ufficialmente davanti a tutti nel vecchio ONU, la Società delle Nazioni, bloccarono l'intervento italiano a parole. Poi noi abbiamo continuato a vendere le armi anche al tempo ai francesi, e semplicemente alla dogana mandavamo prima i grilletti, il mese dopo arrivavano le canne, il mese dopo il calcio del fucile, quindi rimase tutto come prima. Anzi, in Etiopia, dato che sotto avevamo gli inglesi, il Kenya era vicino, eccetera, eccetera, era meglio che ci fossero gli italiani piuttosto che avere uno stato di non si capisce chi. Perché? Perché in quello stato lì avrebbero, intanto vi erano contatti tra il Negus e i giapponesi, e pochi lo sanno, ma il discorso del Giappone in Africa era un discorso molto attuale, perché i giapponesi a quel tempo avevano conquistato praticamente tutto il Pacifico, e avevano iniziato la loro opera, e il fine ultimo era arrivare in Africa, perché il Giappone aveva un determinato tipo di disegno politico che poi non si realizzerà mai, però il disegno era quello, e al tempo bisogna ragionare con quello che c'era a quel tempo lì. Quindi i giapponesi, che erano visti come spina nel fianco per gli interessi inglesi, e noi eravamo ancora alleati degli inglesi formalmente, perché non era stato stracciato nessun patto, il famoso patto a quattro c'era ancora, se ci fosse stata una guerra con i giapponesi, in quali porti avrebbero dovuto partire le navi? Dai porti dell'Africa orientale. Quindi il discorso era economico e di strategia militare. Stessa cosa che avevamo, ad esempio, anche un porto in l'Italia aveva un porto in un piccolo porto in Cina. E perché? Perché era quello il discorso. A quel tempo non eravamo ancora alleati del Giappone, o meglio, non alleati con patto, non c'era il famoso patto tripartito. Dopo alcuni bambini si chiameranno Roberto, Roma, Berlino, Tokyo. Chiameranno i bambini perché... Bellissimo! E quindi il discorso è, bisogna sempre farlo su larga scala. Perché Rommel riuscì a convincere Hitler, pur non avendo uno straccio di rifornimento, a arrivare fino ad Alessandria d'Egitto? Perché gli disse, non perché sono un gran conquistatore, ma perché andiamo a prenderci i pozzi di petrolio del Caucaso facendo il giro dalla Siria e uniamo l'armata che era a Stalingrado con quella della Siria. Quindi una tenaglia gigantesca, siccome Hitler aveva questi sogni napoleonici nella mente, un generale che va lì dopo tutte quelle vittorie con quattro carri armati e dei sagomati di cartapesta attaccati ai carri armati, ai camion italiani che ancora sulla fiancata avevano scritto birra Peroni, perché erano stati ritinteggiati sui piroscafi, riuscì a conquistare con quelle quattro cose, arrivare a pochi chilometri da Alessandria d'Egitto. Chiaramente il discorso della tenaglia, che adesso sembra fantastoria, a quel tempo invece poteva essere reale. E gli inglesi quel discorso, infatti, ammassarono, tolsero tutte le truppe dall'Inghilterra continentale e le portarono in e Churchill fu furbissimo, perché se i tedeschi avessero voluto invadere l'Inghilterra si sarebbero riusciti tranquillamente. La famosa operazione Leone Marino doveva essere lo sbarco. Non ci fu perché si era convinto. Perché Churchill cosa fece? Prese solito discorso di, io chiamo cartapesta, in realtà erano sagomati di legno della contraerea, e li spostava. I ricognitori tedeschi, quando passavano, vedevano truppe finte dall'alto e sagomati. In più erano riusciti a trovare il codice Enigma. Quello è da non sottovalutare, perché Montgomery aveva in anteprima tutti gli ordini dei nostri comandi, però non riuscirono mai a beccare i codici della Marina italiana. Eravamo tanto però quello non riuscirono mai. Infatti fu fino al 43 i nostri piroscafi riuscivano a navigare tranquilli e a portare da mangiare ai soldati di Rommel. Poi quando i tedeschi si resero conto che c'era una cosa che non andava, siccome non si fidavano del comando italiano, dissero tutte le operazioni passano sotto il codice Enigma. La più grande sciocchezza, perché poi Enigma invece veniva tranquillamente tradotto e ritradotto. Quindi vi furono poi anche in guerra si dice la verità è l'arma più, è la cosa che più è importante, perché se tu nascondi la verità riesci anche a vincere delle battaglie dove sei in inferiorità numerica o tecnologica. In quel caso lì Rommel prima e Churchill dopo furono furbissimi. Addirittura ci fu un bombardamento a tappeto della Luftwaffe in Inghilterra sulla città di Leicester. La città di Leicester aveva tutta la contraerea intatta, pronta a sparare. Churchill diede ordine di non sparare un colpo, perché se avesse fatto sparare, i tedeschi avrebbero capito che il giochetto di spostare la contraerea verso la costa, quindi avrebbero capito che c'era qualcosa che non andava. Siccome al comando britannico arrivò in anteprima che la Luftwaffe avrebbe bombardato Leicester, avrebbero potuto tranquillamente sparare con la contraerea oppure far salire i caccia e abbattere i bombardieri. Non lo fecero, quindi sacrificarono la città di Leicester per non far capire ai tedeschi che stavano leggendo i propri codici. Cioè, pensate, e lì morirono quasi 80.000 persone in quel bombardamento. Fu un bombardamento a tappeto. La Luftwaffe non risparmiò nulla e nessuno, però gli inglesi mantennero il segreto di Enigma, e quello fu un... c'è un bel film che racconta in maniera un po' romanzata, però forse è andata in un modo simile, racconta appunto che catturarono un sommergibile, in pratica un U-Boat, e su questo U-Boat c'era questa macchina da scrivere, in realtà non era una macchina da scrivere ma serviva per il codice, e poi venne decifrato. E quindi fino al 41 niente codici, dal 41 al 43 in tutto il Mediterraneo ogni spostamento della flotta anche italiana, purtroppo noi avevamo un comando doppio, quindi doveva essere comunicata anche ai tedeschi il nostro spostamento, e quello ci costò più di una nave affondata. E Malta, che era la base inglese, non venne mai conquistata, eppure tutti si aspettavano che l'Italia conquistasse subito Malta. La prima mossa doveva essere quella, che avevamo a pochi chilometri una base per caccia bombardieri, e invece fu solo bombardata a tappeto, ma non fu mai conquistata. Quindi non fu mai mandato un corpo di spedizione, e ci avevano ben pensato nel 43, appunto perché Rommel non aveva più da mangiare, e addirittura il battaglione San Marco si stava addestrando e i lupi di Toscana si addestravano in Sardegna sulle coste, che sono molto ripide, simili a quelle di Malta, e fecero un addestramento di 6 mesi. Però poi non venne più fatta questa operazione, che doveva essere fatta subito in realtà. Chiaramente, avendo Malta, gli inglesi erano addirittura convinti di averla già persa, tirarono via tutti i militari da lì, li fecero scappare via quasi tutti, rimase una guarnigione ridicola e 3 biplani, che loro chiamarono Fede, Speranza e Vittoria, gli abitanti dell'isola, perché furono bombardati dalla mattina alla sera, questi poveretti, proprio bombardati dall'aviazione italiana e tedesca, perché dalla Sicilia, alè, e da Pantelleria, alè. E poi dalla Libia anche i nostri piroscafi potevano, perché il problema era quello, i nostri militari mangiavano in Libia, quindi dovevi portargli da mangiare. Infatti l'Etiopia, gli inglesi riuscirono subito, quasi subito, a conquistarcela. Nel 41 l'avevamo già persa, perché non riuscivamo a portare l'approvvigionamento. Il duca d'Aosta rimase su Lambalagi, e gli inglesi però erano molto cavallereschi in guerra, fecero il saluto in armi ai nostri soldati, che riuscirono a stare 4 mesi sull'ambalaggio, presero il duca d'Aosta, lo mandarono in Kenya come prigioniero di lusso, però lui morì poi di malaria. E il duca d'Aosta, che era un militare molto competente e soprattutto era soffrire insieme ai propri soldati, era il classico generale che non si tirava indietro, come anche era Italo Balbo, non per niente infatti fu abbattuto per errore dalla nostra contraerea. Balbo, che probabilmente con lui al comando avrebbe preso un'altra piega la guerra in Africa, perché Balbo era più, e lui anche si buttava in prima linea, come faceva Rommel, si buttavano in prima linea. Chiaramente questa cosa dà fiducia ai soldati, vedere il tuo comandante che va in prima linea. Invece quando arrivò Graziani, morto Balbo, Mussolini mandò Graziani invece se ne stava in una tomba romana a 50 metri sottoterra, per paura di essere bombardato, ucciso, anche perché gli avevano fatto un attentato ad Addis Abeba. Quindi lui da lì era spaventatissimo, rimase sottoterra e ogni tanto qualche scaramuccia. Infatti gli inglesi e gli italiani ogni tanto si sparavano, poi un giorno guadagnavi 50 metri di deserto, un altro giorno li riperdevi. Diciamo che avevano, invece con Rommel, tacchete, poi gli inglesi comunque ci conquistarono Tobruk, che poi venne riconquistata da Rommel. Lì è famosa la frase di Churchill, quando Tobruk venne riconquistata dalle truppe italo-tedesche, che disse: i topi di Tobruk sono stati sconfitti. Addirittura i soldati inglesi si erano soprannominati topi, perché poveretti, se 4 mesi di assedio, un assedio cruento, alla fine Tobruk cadde. Quindi questi episodi ci fanno capire che fu una guerra, insomma, dal 40 al 43, non proprio una carnevalata, come leggi in alcuni storici inglesi, parlano sempre di vittorie folgoranti della marina inglese, ma non in questa conferenza, ma in un'altra volevo fare questo tipo di discorso. Vi farò vedere il racconto del nostro bollettino sulla battaglia di Punta Stilo, del bollettino inglese, e va bene, nel senso che l'Italia disse: abbiamo vinto noi. Gli inglesi dissero: abbiamo vinto noi. In realtà non vinse nessuno e non venne affondato nessuno. Questa è la realtà. Però il problema viene dopo, quando degli storici, leggendo quella roba, dicono: ha vinto l'Inghilterra, o comunque ha vinto. Cioè, devi spiegare che in realtà fu una battaglia. Addirittura all'inizio spararono delle salve, perché non si volevano, anche perché gli ammiragli si conoscevano. Il nostro ammiraglio in capo era amico dell'ammiraglio inglese, e l'ammiraglio inglese spesso conosceva i ragionamenti del nostro, cioè, perché noi eravamo stati alleati fino al 38 con gli inglesi, facevamo le famose manovre generali anche con le loro navi, non è che non lo facevamo. Quindi questi discorsi sono complessi, non che dopo dal 40 in poi tutti nemici e nell'odio. Ad esempio, poi in mare ci sono, per esempio, secondo me le battaglie sul mare sono da prendere spesso ad esempio, perché ci furono degli episodi di fratellanza anche tra i soldati. fra i marinai, nel senso che comunque quando una nave viene affondata, i naufraghi, bene o male, vengono presi. Tranne dopo il 42 invece Hitler darà ordine di mitragliare subito. Però tante navi tedesche non lo faranno comunque, perché la Kriegsmarine non si macchiò di grandi... Però ad esempio quelle sono delle belle pagine di storia, che comunque sono soldati avversari che nella sofferenza però sono uniti, come nella prima guerra mondiale è famoso quel racconto di un soldato italiano che durante le fasi di non guerra si andavano a raccogliere i corpi dei compagni e in teoria gli altri potevano sparare e non sparavano mai, quindi c'era questo accordo tacito. E soprattutto di sera, spesso e volentieri, dalle trincee italiane vi era un soldato napoletano sul Carso a cui piaceva molto la lirica e cantava di sera, non c'era la rap, cantava, e addirittura delle volte dalle trincee austriache partivano, a parte gli applausi, e qualche soldato tedesco che conosceva l'italiano diceva: no, stasera facci quello. Quindi poi questo non lo sentirono più e arrivò una lettera dal comando tedesco informale, venne data alla Croce Rossa italiana per chiedere se questa persona era morta. Invece in realtà era stata rimandata a casa perché aveva un parente, non so, avevo letto questa cosa, tutto scritto sulle lettere dei militari, perché alla fine quelle sono cose più reali rispetto a... Quindi vedete, alla fine questi episodi sono interessanti da riportare anche a dei ragazzi tedeschi e italiani, perché ti fanno capire che alla fine quelli erano tutti ragazzi, e come i morti, quando si vanno a commemorare i morti sono tutti uguali, non stiamo più a dire ma quello era austriaco, no, erano dei... Tu leggi le lettere austriache, le lettere italiane, le lettere serbe, ti viene da piangere in ogni lettera, perché tutti: cara mamma, caro papà, qui ci sono i pidocchi, cioè voglio dire, quelle sono generazioni che hanno vissuto delle cose, ecco qua il caporetto, sono delle generazioni che hanno vissuto degli eventi, secondo me. E adesso l'ultima cosa, poi vi lascio, ho letto un libro di recente di una ragazza sarda che ha 26-27 anni, che parla di questa crisi che c'è adesso, e che dice: io mi riconquisterò il futuro. E sono stufa di appartenere a uno Stato, cioè l'Italia, che ha sempre tutelato tutti, tranne noi giovani, nell'ultimo periodo. E sono stufa che ci siano generazioni di tutelati. Ecco, a me questa frase qua non mi è piaciuta per niente, infatti l'ho provato a contattarla e le ho chiesto, non mi ha ancora risposto, chi sarebbero le generazioni di tutelati. Gli ho detto: sono tutelati quelli degli anni 70, comunque ci fu una crisi e ci furono le persone precarie anche lì, forse anche peggio di adesso su certi aspetti. Tutelati chi furono? Quelli del boom economico, perché avevano una Vespa e lavoravano quasi tutti in fabbrica. Furono tutelati le generazioni magari della signora che videro il nazismo o dal 40 al 45 negli anni più belli della propria vita andarono in guerra? Oppure furono tutelati i ragazzi del 99, del 1899 mandati nelle trincee a 18 anni? O tutelati quelli che del 29 col crack economico sì, ci furono imprenditori in massa che si, specialmente negli Stati Uniti ci fu un crack enorme lì, enorme. Quindi voglio dire, quando si fanno questi discorsi, noi il futuro, noi dobbiamo tutelare tutti, cioè non è che dobbiamo tutelare solo chi ha 18 anni, 25 o 30, dobbiamo tutelare tutti, e non dobbiamo buttare via il patrimonio delle generazioni precedenti, nel senso che anche adesso lo slancio verso i giovani c'è sempre stato, anche a inizio novecento, anche D'Annunzio era un giovane per quel tempo, però deve esserci comunque lo dico perché io non faccio parte delle generazioni che hanno vissuto quelle cose, però la memoria storica e il rispetto, perché se tu puoi parlare così e scrivere un libro è perché qualcuno prima di te i sacrifici li aveva fatti, quindi appunto. Credo che noi siamo stati educati in modo diverso, noi siamo stati educati a lavorare, invece adesso con tutto questo che i conti non li fanno più, perché che cosa sono? Non sono niente e hanno paura di tutto, questo è il male, per cui non si buttano, prima di buttarsi è come... fare un tuffo, vogliono sapere se toccano. Non si fa così, non vai avanti in questo. Ecco, la signora ha fatto un ragionamento, giustamente lei arriva da certi periodi storici e effettivamente... Per quello che sono fuori. Probabilmente direi anch'io... Perché non si buttano. Chiaramente direi anch'io sono una frase così. Sono abituati a letto, invece noi no. E certo che... Purtroppo con la guerra non è, e certo, abbiamo dovuto... E certo, penso che c'è una persona che le darebbe ragione, sa chi è? Paolo Villaggio, che sta andando in un sacco di trasmissioni televisive dicendo appunto dicendo ai giovani ragazzi: guardate che io ho vissuto il periodo dal 45 al 50 dove andavo a mangiarmi le cosce di pollo buttate per terra dai soldati americani perché non avevo da mangiare. Quindi prima di parlare di grandi sofferenze, cioè le sofferenze ci sono anche adesso. È vero che deve essere fatta una politica verso i giovani diversa, questo siamo d'accordo tutti. Però deve esserci però, anche un minimo di gavetta. Questo posto non mi piace perché è troppo lontano e il genitore gli dice va bene, stai a casa, perché la colpa è dei genitori. Vabbè, quello sicuro. Ah, ecco, è dei genitori che perché stavano un po' meglio, allora i figli tutto. No, la signora... No, caro, perché riassume, la vita non è così. Devi fartelo anche tu il meglio, non godere solo del mio. Questo non no, la signora, capito. Ecco, vedete, in questo caso qua la mi signora piace, dal suo punto, no, dal suo punto di vista ha ragione, nel senso che lei ha vissuto determinate cose e quando sente adesso certi discorsi ha una certa irritazione che avrei anch'io probabilmente se avessi, cioè, non so, davanti a un reduce del Carso dire "Bah, che vita che sto conducendo", e farebbe un po' ridere, insomma. Quindi io credo che intanto ci vuole uno studio più approfondito della storia e capire che non è che tutti i momenti, perché noi siamo abituati a ragionare così, tutti i momenti che viviamo sono eccezionali, tutti, perché ovvio li viviamo noi, quindi primo, secondo, la consapevolezza che non è vero che 20 anni fa uno usciva dall'università e gli dicevano "ma guarda, cosa vuoi fare tu? Ah, ok, vai pure", cioè tutto il posto. Qui bisogna avere la consapevolezza, e questo secondo me che non deve essere un limite. Ci sono anche tanti ragazzi che questa cosa l'hanno capita e anche molto bene, ne ho conosciuti per fortuna, però ce ne sono tanti altri che si sono distaccati, ma io non credo più nella politica, non credo più là. Invece secondo me è proprio lo studio della storia che ti dice in qualcosa uno deve credere, sennò diventa, boh, non lo so. E perché se Mazzini avesse detto "io non credo più in niente", appunto, che avremo, cioè, nel senso, io credo che adesso, a parte le battute, bisogna, e un libro del genere, io se avessi più di 50 anni e leggessi un libro del genere la vado a cercare questa qua appena fa una conferenza e le inizio a dire di tutto e peste e corna, perché mi sento veramente buttato via, nel senso che io l'ho letto questo libro e ci sono dei passi in cui se questa persona ha una nonna non può non sentirsi offesa perché sembra che le generazioni precedenti vivessero in una invece la storia del Novecento, il secolo con più guerre della storia umana, non mi sembra che chi è nato, anche perché quando sono nato io eravamo ancora in piena guerra fredda e non era proprio un periodo d'amore e dove c'era tutto così, lo scoppio della guerra nucleare, eravamo lì, la Baia dei Porci, Kennedy. Insomma, non è solo anzi forse il rischio di guerra nucleare adesso si è un po' abbassato rispetto a quel tempo lì, forse, perché magari i matti sono sempre in vita, però insomma, voglio dire, io lascio questo, dico, secondo me il futuro bisogna, poi la parola conquistare non è che mi piaccia molto, bisogna guadagnarselo. Io ragiono così, guadagnarci il futuro, non avere una certa invidia per chi ha realizzato, cioè, ad esempio lei ha un passo sui giornalisti, poi vi lascio andare. Ma chi è questa? Si chiama Claudia, non voglio però dare cognomi, no, perché non... vabbè, ma si trova. No, l'ho trovata in internet, è sarda. E sui giornalisti, sono stata a una convention di giornalisti a Ischia, beata te, e questi giornalisti sono al di fuori della realtà. Si vede che fanno parte di una generazione di tutelati, no? E con questa parola tutelati, addirittura ho visto sul suo profilo Facebook qualcuno che gli scriveva, ha detto addirittura che una volta si potevano fare molte più cose come il cinema, eccetera, eccetera. Una frase assurda anche Monicelli aveva i suoi agganci. Ma cioè, è ovvio che una persona di quel livello conosca il politico. Cioè, adesso stiamo veramente alla follia. Se una persona, Enrico Fermi, è chiaro che conoscesse i vertici dello Stato americano. Voglio dire, se parla così tanto dei tutelati, è perché lei è per primo, perché il proverbio. Ma adesso non volevo parlare di questa, perché no, non può difendersi, dire, non è giusto. Era, ho tirato su una sua citazione. Chi lo dice lo sa di essere. Per cui, ecco, appunto. Beh, io, a parte la mia nota polemica finale, che però ho visto la platea, che era di generazioni precedenti, ed era una sorta di mio, non so, di stare dalla vostra parte, nel senso che comunque io sto dalla parte sia dei giovani che di quelli meno giovani, certo, non mi piace schierarmi da una parte o dall'altra, e chi lo fa secondo me sbaglia. Si devono aiutare, perché adesso i genitori, a cominciare da quelli là che erano genitori nel 70, nell'80, hanno solo lavorato per dare benessere e non hanno lavorato per dare dei sentimenti, dei fini, no, solo il benessere. Ma oh, la vita non è mica fatta così. Grazie se ci sei arrivato, però al figlio devi insegnare che anche lui deve arrivare, perché i genitori mica sono eterni. Eh no. E noi siamo così per quello. È una certa cultura del sacrificio. A cominciare dal sistema, con una manica larga che non finisce più. Ma dove siamo arrivati? Quando andavano all'università in sei anni. Un dibattito. Adesso poi ci troviamo dei medici, ingegneri, cacca le